Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Da ieri è cominciata l'ostensione della Sacra Sindone a Torino. Si prevede che saranno almeno 2 milioni i pellegrini che fino al 23 maggio visiteranno il Sacro Velo. E anche il Papa gli renderà omaggio il 2 maggio. Abbiamo voluto quindi dedicare la puntata di oggi alla Sindone, facendo il punto con Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia. Nel 1992 l'allora arcivescovo di Torino e custode pontificio della Sindone, Cardinale Saldarini, nominò una commissione di scienziati a livello internazionale, dandoci il compito di studiare come fare a migliorare il modo di conservare la Sindone. Per cui nel decennio 1992-2002 sono state apportate una serie di migliorie al modo di conservare la Sindone, a partire dal fatto che la Sindone oggi non è più conservata arrotolata come era all'epoca, su di un cilindro, come è rimasta dal 1600 fino a pochi anni fa, fino ad allora, ma completamente distesa su di un piano orizzontale, per evitare che la formazione di nuove pieghe ad ogni arrotolamento e srotolamento potessero disturbare la visibilità dell'immagine. In secondo luogo sono stati tolti quei materiali che servivano per le ostensioni manuali del passato, come un nastro di seta azzurra che la circondava e i teli rossi che la coprivano in occasione degli arrotolamenti, e come ultima operazione è stato fatto nel 2002 un restauro conservativo che è consistito nell'asportazione dei rattoppi che erano stati cuciti sulla Sindone nel 1534 per riparare i danni provocati dall'incendio di Chambéry di 2 anni prima, ed è stato sostituito il telo d'Olanda cucito sotto la Sindone sempre in quell'occasione per consentirne appunto la conservazione dopo i danni dell'incendio. Ebbene, questo ha fatto sì che innanzitutto la Sindone oggi possa essere vista esattamente come era prima di questi rattoppi, che oggi non sono più necessari perché la Sindone è conservata distesa e non arrotolata. Inoltre ha permesso di asportare un'abbondante quantità di polvere carbonizzata proveniente ancora dall'incendio di Chambéry, che era rimasta pizzicata sotto alle toppe e che in parte si era sparsa sul telo inquinandolo, e questo era un lavoro assolutamente indispensabile per garantire una buona conservazione della Sindone. Sarà la prima volta che sarà possibile vederla in questa sua nuova situazione. L'argomento dibattutissimo è la datazione appunto della reliquia. A che punto siamo? Le critiche che si sono levate da diversi gruppi di scienziati in questi 20 e più anni che ci separano da quella datazione del 1988 relativamente alla scelta poco felice del luogo dove è stato prelevato il campione, molto inquinato, forse la zona più inquinata di tutto il telo, le difficoltà relative ad un risultato certo, tenendo conto che il telo ha sicuramente subito degli inquinamenti sia di tipo biologico sia di tipo chimico, ma probabilmente anche di tipo tessile, visto che nella zona dove è stato fatto il prelievo sono poi riscontrati delle tracce dei fili di cotone che fanno pensare ad un rammendo effettuato nei secoli successivi. Bene, tutto questo ci fa ritenere che prima di effettuare una nuova datazione sia indispensabile fare una mappatura completa della Sindone da un punto di vista sia chimico, sia fisico e sia merceologico, cioè tessile, in modo tale da individuare qual è la zona più omogenea e quindi meno a rischio di un risultato fasullo, e poi effettuare un prelievo però riuscendo a tener conto nel miglior modo possibile di quelli che possono essere stati gli inquinamenti che il tessuto ha subito nel corso dei secoli. Questo richiede quindi uno studio ad ampio raggio sul telo, e solo dopo aver fatto questo studio sarà utile rifare una datazione, perché altrimenti il risultato sarebbe criticabile esattamente come lo è stato quello di 22 anni fa. Al di là dello scetticismo degli studi che periodicamente rilanciano la tesi della non veridicità, in realtà la Sindone continua ad attirare milioni di pellegrini. Questo è un dato di fatto, per cui cosa sta a significare questo? Che gli studi è bene che ci siano e che proseguano, e questo è una cosa assoluta sulla quale io mi sono più volte battuto, ma sta di fatto che il significato di questa immagine va ben al di là di quelli dei risultati scientifici, che variano e che dipendono anche dalle varie epoche in cui sono stati fatti. L'immagine che vediamo sulla Sindone ha un rimando unico e inequivocabile alla vicenda umana di Gesù di Nazareth. Questo al di là dei risultati degli studi scientifici. Quello che si vede su questa immagine ripercorre in modo fedelissimo tutto quanto i Vangeli ci raccontano sulla passione di Gesù e sulla sua morte e sulla croce. E questo lo trasforma, come è stato chiamato da alcuni, in un quinto Vangelo, in immagini, che quindi in un momento, in un periodo storico come questo, in cui l'immagine ha acquisito un significato, un ruolo, un'importanza che solo 50 anni fa non aveva, la trasforma in un'immagine veramente preziosa e che interessa e coinvolge non solo i fedeli, come nel 2000 e nel 1998, le ultime due ostensioni, sono sicuro che anche ci saranno molti visitatori che non sono credenti oppure appartengono ad altre religioni, ma sono interessati e in qualche modo interrogati da questa immagine che perlomeno è il segno del dolore, della sofferenza umana. Ora c'è Don Willy Volontè, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. In una trasmissione abbiamo affermato, sulla scorta delle riflessioni del filosofo Emanuele Severino, che la tecnica ormai ha soppiantato la democrazia e forse anche tenta di soppiantare la religione. Puntualmente ecco il risultato di questo capovolgimento di valori. Facebook, questo social network che imperversa su internet, è stato catturato da un pazzo furioso che ha divulgato il suo pensiero malato, affermando che i bambini con la sindrome di Down sono un peso per la società e quindi sarebbero da eliminare civilmente. Due, i problemi etici posti da questo fatto menzionato. La globalizzazione ha fatto crollare le frontiere dell'informazione e reso impotenti i controlli tramite i codici penali. Il British Medical Journal recentemente ha scritto che l'aumento dell'età delle donne nel generale porta ad un aumento della sindrome di Down nei nascituri. Vi è contemporaneamente un progresso delle diagnosi prenatali, lo screening. Il 70% dei bambini Down sono individuati prima del parto e sovente, conseguenza sconvolgente, la sentenza di morte è pronta. Il 92% delle madri, di fronte al negativo responso, decide di abortire. Allora due notizie, una buona e una cattiva. Quella cattiva, chi ha scritto su Facebook è certamente uno squilibrato. Una buona notizia. Non è motivo di incoraggiante stupore che ci siano ancora il 30% delle madri che non si sottopongono allo screening per individuare la sindrome di Down, che sa molto di sentenza capitale, ma sentono il figlio comunque come un dono e non tanto come un problema da risolvere?